24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegata a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il caso Strauss-Kahn. La difesa del direttore dell'FMI accusato di stupro dice la donna era consenziente. Aumentano intanto le pressioni per una rapida successione al vertice dell'istituzione finanziaria. Poi la vicenda italo-francese di Parmalat con il TAR del Lazio che boccia la richiesta di sospensione dell'OPA, e anche oggi lo sport con il Giro d'Italia e la vittoria a sorpresa del francese Gadré. La donna era consenziente, questa la nuova linea difensiva del direttore del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn, accusato di stupro. Gli Stati Uniti starebbero intanto considerando di proporre il consigliere della Casa Bianca David Lipton come numero due del Fondo Monetario in sostituzione di John Lipsky, il cui mandato scade a fine agosto, ma l'FMI punterebbe anche alle dimissioni del direttore in carcere. Mentre Dominique Strauss-Kahn è arrivato nelle prigioni di Rikers Island, apprendiamo di un improvviso sviluppo nella tesi della difesa, e cioè che il rapporto sessuale con la cameriera sarebbe stato un rapporto consensuale. L'avvocato difensore infatti ha lasciato trapelare notizie e dettagli secondo cui le prove in possesso dell'accusa non dimostrano, anzi sono contrarie all'idea che possa esserci stata violenza. Uno sviluppo nuovo dunque che ha raccolto reazioni scandalizzate da parte dell'accusa che tutela gli interessi di questa cameriera immigrata dalla Guyana 7 anni fa. Il mistero dunque si infittisce, i colpi di scena sono riservati a questo punto per venerdì, quando il gran giurì dovrà decidere se è il caso di procedere o meno con questo processo. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Voltiamo pagina, il TAR del Lazio ha deciso in merito all'OPA Lactalise su Parmalat. Richiesta respinta. Il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Finanziari avevano chiesto la sospensione dell'offerta pubblica di acquisto per presunte violazioni del testo unico della finanza. Il TAR del Lazio non ha accolto la domanda. Così va al suo posto anche l'ultimo tassello, l'ultimo possibile ostacolo, dell'OPA Lactalise su Parmalat. Il giorno dopo la bocciatura dell'offerta da parte del Consiglio di Collecchio, poco o nulla cambia nella vicenda. Secondo il CDA l'azienda vale più di 2,6 euro per azione. E poi il piano non sarebbe così buono per Parma. Sinergie negli acquisti, ma non nella produzione, e aumento della presenza italiana in mercati già saturi e non nei paesi emergenti. Insomma, il board guidato da Bondi boccia i francesi, ma i francesi difficilmente si preoccuperanno di questa bocciatura, anche perché il giudizio non è vincolante, visto che l'OPA è volontaria. Dunque, i 2,6 euro offerti da Lactalise resteranno tali, e poi, tutto sommato, se le adesioni non arrivassero al 55%, Lactalise potrebbe scegliere di restare ferma dov'è, poco sotto il 30%, ottenendo così il massimo risultato, il controllo del Consiglio, con uno sforzo contenuto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seduta positiva per le borse europee. Francoforte ha guadagnato lo 0,65%, Parigi lo 0,92%, Londra è avanzata dell'1,07%. Positiva anche Piazza Affari. Dopo 4 sedute in rosso, i listini europei hanno ritrovato il segno positivo, anche se continuano ad aleggiare i timori per la Grecia. A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,16%, il FTSE All Share lo 0,18%. Molti dei titoli che nei giorni scorsi avevano subito forti vendite, ieri si sono ripresi, come Diasorin più 1,87%, Campari più 0,96% e TOTS più 0,94%. Il rialzo del prezzo del petrolio, tornato sopra i $100 al barile, ha spinto Saipem più 0,86%, Eni più 0,83% ed Enel più 0,99%. I bancari si sono mossi ancora con cautela. UBI ha ceduto l'1,77%, Unicredit lo 0,92% e Intesa San Paolo lo 0,4%. Solo il Banco Popolare si è mosso in decisa controtendenza, guadagnando l'1,1% grazie a un'operazione su alcune obbligazioni subordinate che ne rafforza la struttura patrimoniale. In calo anche Mediaset, -1,29%. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Durante il suo storico viaggio in Irlanda, ieri la regina Elisabetta II si è recata al Croke Park di Dublino. Lo stadio rappresenta un simbolo dell'identità irlandese. Qui infatti il 21 novembre 1920 la polizia britannica aprì il fuoco sugli spettatori uccidendo 14 persone. La visita della regina è stata considerata un simbolico gesto di scuse e riconciliazione. E in mattinata Elisabetta II ha visitato anche lo storico museo dublinese della Guinness. Né lei né il marito hanno però assaggiato la celebre birra scura. Adesso andiamo in Francia dalla Premier Dame Carla Bruni. Ma j'ai envie simplement de vous féliciter. Je vous félicite aussi. No. Due giorni fa, come avete sentito, era stato un giornalista di ETFAN a farle in diretta le congratulazioni. Ieri è stato il papà dello stesso Sarkozy a confermare la gravidanza di Carla Bruni, moglie del presidente francese. Mi rallegro dell'arrivo di mio nipote, ha detto al giornale tedesco Bild, il padre di Sarkozy. E adesso lo sport con il Giro d'Italia. Ieri una vittoria inaspettata. Ci racconta quello che è successo Pier Augusto Stagi. È successo che John Gadre ha colto la vittoria della vita, una solo finale terribile quando ormai sembrava che stesse andando a vincere uno spagnolo, Moreno, e è stato ripreso proprio sotto il traguardo, Joaquin Rodriguez è secondo, terzo il campione d'Italia Giovanni Visconti, quinto Contador così senza tanto far fatica, Scarpone ottavo e Nibali decimo. In classifica generale Contador ha mantenuto la maglia rosa nonostante lui abbia fatto anche di tutto per perderla, gli andava benissimo che la prendesse il francese Lemevel, ma poi in realtà si sono messi al suo servizio due o tre squadre che con i vari giochi, classifiche e mica classifiche hanno fatto il gioco anche di Contador, e Contador è ritornato anche a Castelfridarno con la maglia rosa. E in terza posizione invece è salito Vincenzo Nibali, che è sempre 1-21, però è terzo. Il calcio adesso. Resta la Spagna prima nella classifica mondiale delle nazionali di calcio stilata dalla FIFA. A seguire un'altra europea, l'Olanda. Terzo posto per il Brasile. Le altre europee, quarta la Germania, sesta l'Inghilterra, ottavo il Portogallo, nona l'Italia. E a scegliere la Spagna è Kakà. È il messaggio che Madrid ha mandato al Milan. Ma tra Spagna e Italia potrebbe presto arrivare un altro scambio. Devo fare qualcosa in più qui a Madrid e questo è quello che voglio adesso, voglio rimanere ancora qua e provarci a vincere e fare qualcosa di bello anche qui. Davvero sembra ancora uno di noi, con quell'italiano fluente e limpido, ma i tifosi rossoneri si mettano il cuore in pace. Riccardo Kakà resta a Madrid, fedele al Real e al suo nuovo profeta, José Mourinho. E allora il diavolo punta forte su chi a Kakà ci assomiglia davvero da vicino, cioè l'argentino del Palermo, Javier Pastore. E a proposito di fantasia, Thiago Silva, rossonero fino al 2016, sponsorizza Ganso del Santos. Io ho parlato con Ganso due giorni fa, lui era contentissimo, spero che il prossimo anno pare arrivare a Milano. Rinnovo di un anno anche per Van Bommel e il terzo portiere Flavio Roma. Vicini al passo d'addio invece Seedorf e Pirlo, quest'ultimo verso la Juve. Per i bianconeri la firma di Conte è sempre più vicina. Trovato il nuovo allenatore, la vecchia signora rifirma Marchisio fino al 2016 e punta sul genero di Maradona, il Kun Aguero, stella dell'Atletico Madrid. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il cinema in chiusura, andiamo a Cannes, dove gli occhi sono puntati sul film del regista danese Lars von Trier in concorso. Non un'ovazione, ma ci sono stati applausi per il film di Lars von Trier, Melancolia, presentato questa mattina alla 64esima edizione del Festival di Cannes. La trama già la si conosceva, un pianeta che costa contro la Terra e una fine del mondo più o meno annunciata. Eppure questa storia, che poteva prestare il fianco a molta retorica, von Trier l'ha trattata con delicatezza, puntando la telecamera su due sorelle, Justine Kirsten Dunst e Claire Charlotte Gainsbourg. Justine è un'instabile creativa, umorale depressa, che lascia il novello sposo durante la festa di nozze, organizzata nel castello della sorella Claire. Justine, come gli animali e i cavalli della tenuta, sente la fine imminente e non è spaventata, anzi aspetta la liberazione dalla malvagità della terra. Claire, generosa e amorevole nei confronti della sorella, è invece terribilmente spaventata di perdere ciò che ama, il figlio, il marito e ciò che ha costruito. Due interpretazioni magistrali e perfino la scena di Melancolia che si avvicina alla terra non è così kitsch come si teneva all'inizio del film. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. E Lars von Trier, presentando il suo Melancolia, ha tenuto una bizzarra conferenza stampa in cui si è dato ad un umorismo piuttosto discutibile. I understand Hitler. No, I'm just saying that Capisco Hitler perché capisco l'uomo che è pieno di male, ha detto Lars von Trier. Sono contro la Seconda Guerra Mondiale, mi sento vicino agli ebrei, ma non troppo perché Israele è un problema. Su richiesta del festival poi il regista si è scusato spiegando di essere caduto in una non ben precisata provocazione. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.